Il progetto It Crimes No More nasce in seno al centro risorse LGBT, che è una realtà appunto che ha l'obiettivo di fare ricerca e monitoraggio sulla condizione delle persone LGBTQ in Italia. E nello specifico It Crimes No More vede la partnership del Comune di Bologna all'interno del Patto Generale di Collaborazione, Promozione e la Tutela dei Diritti delle Persone e del programma Creating Opportunities di ILGA Europe. Insieme a queste realtà abbiamo messo in piedi appunto un questionario che è possibile trovare sul nostro sito. È molto semplice da compilare, ci vogliono solo 3 minuti e al suo interno verrà chiesto alla persona che lo compilerà di descriverci un episodio di discriminazione o di violenza subita. Faccio questa distinzione perché per noi all'interno di questo questionario è importante sottolineare come la violenza che colpisce le persone LGBTQ non è solamente quella che vediamo più spesso nei media, cioè quella molto enfatizzata dei reati, diciamo, proprio violenti, ma è una violenza quotidiana, a volte anche molto più sottile, che influisce sulla vita delle persone LGBT, impedendole di vivere una vita pienamente realizzata, ecco. Ecco, una campagna che in qualche modo, almeno a me leggendola, ricordava un po' anche il movimento MeToo, nel senso del modo in cui dovrebbe far emergere la sistematicità di un certo tipo di violenza. Esatto, perché abbiamo deciso sin dalla parte che riguardava appunto la comunicazione di questa campagna di chiedere a degli attivisti appunto del mondo LGBT di farsi portavoce di un'esperienza personale, perché al contrario di altre ricerche che vengono appunto, che possono essere promosse anche da organismi più istituzionali, Hate Crimes No More, che è promosso quindi da un'associazione, mira appunto a dare voce direttamente alle persone della comunità LGBT, quindi sono le persone che partendo dalla propria esperienza personale, quindi qui un collegamento esatto come hai detto tu con il MeToo, decidono di raccontare un episodio di violenza, di portarlo alla luce e di contribuire a dare una fotografia del problema dell'omotransfobia in Italia in questo momento. È un tema che emerge anche nel video di lancio, diciamo, di questa campagna anche comunicativa, è anche quello dell'assenza in Italia di una legge ad oggi contro l'omo-lesbo-bi-transfobia. Esatto, in questo momento, parlando ancora più in generale, l'Italia non riconosce quello che è il titolo della nostra campagna, cioè gli hate crimes, i crimini d'odio che vengono rivolti contro le persone homo, lesbo, bi, trans. E questo ha due conseguenze, quello di invisibilizzare questo tipo di crimini e quindi di invisibilizzare di conseguenza anche le persone e ha come seconda conseguenza quello di rendere questi episodi di violenza eccezionali, quindi non riconosciuti nella loro sistematicità, organicità. Noi vogliamo ribadire che questo tipo di violenza non è occasionale, ma è strutturale, qualcosa che purtroppo è connesso alla cultura in cui fino a questo momento siamo cresciuti e continuiamo ad alimentare. Ecco, forse uno dei motivi di difficoltà, diciamo, a livello istituzionale nel riconoscere la sistematicità di questa violenza è che poi alcuni degli esempi che vengono fatti di discriminazione, anche in queste prime 7 testimonianze che avete raccolto, in certi casi chiamano in causa proprio anche lo Stato. Penso per esempio al caso nelle recenti elezioni delle divisioni delle file per genere, quindi dell'esclusione delle persone trans. Esattamente, questa è ad esempio chi ha purtroppo esperienziato, ha fatto esperienza di questo tipo di situazione, può assolutamente inserirla nel questionario perché questo è un episodio di discriminazione di genere e che quindi tocca anche le tematiche di cui il nostro questionario si fa portavoce, quindi assolutamente. Diciamo, come dicevo all'inizio, purtroppo queste violenze hanno una innumerevole scala di grigi, vanno dal pestaggio, allo stupro, all'atto di violenza estremo, fino a qualcosa che ti viene dato come normale, come ad esempio una divisione per sesso, no? Per sesso di nascita, e invece poi dopo anche quello è un costrutto sociale che in questi anni si è andato decostruendo, ma che è difficile decostruire pienamente per rendere appunto gli eventi della vita quotidiana inclusivi per tutte e tutti. Ecco, quindi sicuramente questo questionario vuole dare un dato, dare dei dati, far emergere l'invisibilità a cui molto spesso molte persone vengono relegate. Ti faccio un'ultima domanda che è un po' un'analisi, una valutazione secondo te di questo periodo storico, un periodo storico in cui si è detto più volte i crimini d'odio per esempio sembrano essere in aumento in Italia. Sì, diciamo che in Italia, in Europa e diciamo per buona parte del mondo occidentale, per come siamo stati abituati a vederlo fino ad anni recenti, le cose stanno cambiando non a nostro favore, e nella parola nostro inserisco quello di tutte le minoranze che si trovano, diciamo, più minacciate rispetto a qualche anno fa, in cui la strada sembrava essere andare in un'altra direzione. Quindi proprio in questo momento è ancora più necessario raccogliere i dati, interloquire con la realtà, cercare di raccogliere elementi che possano darci strumenti per battagliare, per far valere le nostre vite, dal momento che molto, molto spesso, e anzi sempre più spesso, le varie facce del potere cercano insomma di mettere pressione con i mezzi appunto o della violenza istituzionale oppure anche quella di una violenza anche in questo caso più sottile, e quindi questo questionario vuole non diciamo accettare questo profilo unico che viene proposto e fare una controproposta, dire noi ci siamo tanti, questi sono i nostri dati, non potete invisibilizzarci, ci dovete ascoltare perché abbiamo i diritti, abbiamo dei diritti e vogliamo che questi diritti siano riconosciuti, non vogliamo più essere solamente vittime. Siamo prima di tutto cittadine e cittadini come tutti gli altri. Certo, ho detto che era l'ultima domanda, in realtà ti chiedo ancora velocemente alcuni dati tecnici, quindi appunto se puoi ricordarci dove si può trovare il questionario e per quanto tempo sarà aperto e quando più o meno vi aspettate poi di concluderlo e di diffondere i dati. Allora, il questionario sarà disponibile, si potrà accedere attraverso un link che verrà diffuso via social, quindi via Facebook, Instagram e Twitter. I nostri loghi saranno appunto impersonati dai nostri 7 testimonial. Sui social questi post conterranno già il link che manda al nostro sito, che è www.centrorisorselgbt.eu. All'interno del sito, scorrendo la pagina, si può trovare questionario Hate Crimes No More Italia. La compilazione va da adesso, da giugno 2019 fino a dicembre 2019, quindi ci saranno 8 mesi di tempo per compilare e per far compilare il questionario, dopodiché a partire dal 1 gennaio 2020 inizierà l'analisi dei dati e speriamo appunto di uscire con il rapporto definitivo sui dati per marzo 2020.